Beh, finisce un po', come dire, in maniera sorprendente, come è sorprendente d'altronde questo pezzo meraviglioso una progettualità tra le più importanti di quella New York, anche se vengono da Detroit, e questo potrebbe anche dirci qualcosa su poi quello che si svilupperà in distanza di pochi anni rispetto alla techno di Detroit, e quindi questo voler andare fuori dalle righe, questo senso escapista che non vuol dire soltanto staccarsi dalla realtà, ma anche esserci dentro in maniera alterata, completamente, insomma, freak, come anche un loro pezzo storico, poi Was No Was, da Mutant Disco, che è un po' il perno di tutta la faccenda dalla fine degli anni 70, chiamata disco punk, no wave disco, Mutant Disco, appunto, quella sorta di mutevolezza e di DNA che stava cambiando dentro le musiche wave, dentro la stessa new wave di New York, che si stava trasformando in musica veramente con mille rivoli e mille possibilità date a queste musicalità che, partendo appunto, come questa sera stiamo citando, From Disco, No Disco, dalla disco appunto magari non partivano, magari era il processo opposto, ci arrivavano alla disco e poi si perdevano veramente in maniera meravigliosa, escapista in questo senso, il discorso tra Detroit di Was No Was e Detroit della techno di Carl Craig and Company, Jeff Mills, nel senso appunto di perdita poi di quello stato realista acquisito da dove parte appunto una musicalità, una rabbia anche che in Was No Was anche era espressa in maniera interculturale attraverso musicalità nere che attraversavano il P-Funk e arrivavano appunto alla wave, al punk funk anche considerato tale, e quella voglia, insomma, di sperimentare su corpi dance che stavano proprio nascendo all'epoca come diversità e come alterità. Il primo nucleo della disco fu proprio quello di una sorta di comunità, di un post-hippismo alla David Mancuso, il suo loft che percorreva per vie diverse questo senso appunto molto collettivo. Poi la disco diventerà altro, l'abbiamo detto, e recuperando questo senso originario dentro musiche che sembrerebbero molto distanti, poi in realtà non lo sono, e questa sera lo stiamo anche dimostrando musicalmente parlando, ma anche, insomma, politicamente. Was No Was utilizzavano questo discorso della mutazione anche per parlare di un'America che stava cambiando col reganismo, che stava entrando proprio nei primissimi anni 80 a sradicare quello che era stato comunque un decennio passato, quello di 70, di lotte sociali, di un'America comunque sfigurata anche dagli stessi scandali e dallo stesso shock petrolifico, quindi la grande crisi economica e tutta, insomma, l'alternatività e anche l'antagonismo, perché no, sviluppato appunto tra la fine degli anni 60 e soprattutto il decennio dei 70, le Black Panther, quindi il riferimento a un funky e un free molto largo dentro le comunità nere. Dentro questo discorso ci potremmo pure mettere quello che sarà poi la techno di Detroit, con quel senso politico dato dai grandi licenziamenti a Detroit della metà degli anni 80, quel senso di alienazione che la piccola borghesia nera, come buona parte degli storici, John Atkins eccetera, nei primi detroitiani, sentiranno come caratteristica forte di una città che da grande città americana si svuoterà e diventerà una sorta di cimitero tecnologico, con tanto di capannoni ed industrie abbandonate. E questo discorso poi ci porta anche a definire e ridefinire quelle che sono le materie dance, come d'altronde poi abbiamo iniziato con Arthur Russell e i suoi Dinosaur, ripercorre anche attraverso una delle altre grandi matrici sonore che stiamo trattando questa sera, ovvero l'hip hop, con Nicky Siano e il progetto Felix, appunto Arthur Russell e Siano, e dentro questa nuova possibilità anche data dall'hip hop, da un certo tipo di dubbismo che troveremo tra pochissimo proprio con Risconnection, e poi appunto con Felix, appunto progetto di Arthur Russell insieme a Siano. Con Risconnection si va dentro quella giocosità dubbistica che qua si tinge anche tanto di utopismo disco, potremmo dire, con tanto di suono che da sdolcinato si fa veramente caloroso, toccando appunto i lidi di Sly Robbie e della Giamaica anche più fantasiosa e più fantastica. Risconnection con la loro Non Stopping Us Now, e poi Felix con il loro progetto assolutamente folle tra hip hop, disco, wave e quant'altro la mente di Arthur Russell potesse pensare. spot. You can move. You can move. You can move. You can move. You E dopo Dinosaur e quindi la prima collaborazione tra Nicky Siano, DJ del storico DJ del Gallery, insieme a Walter Gibbons, che tra l'altro, prima non l'ho detto, comunque anche lui avrà modo di collaborare con Arthur Russell in maniera anche piuttosto importante, anche molto bella, con Indian Ocean, uno dei suoi pezzi più assurdi, poi un'assurdità su un'assurdità, ovvero il pezzo originale di Arthur Russell, Indian Ocean, poi rivisto dentro le mani e le menti, soprattutto metafisiche, disco di Walter Gibbons, diventa ulteriore follia. E oltre appunto alla collaborazione tra Siano e Russell dentro Dinosaur, c'è stata quella appunto dei primi anni 80 legata a Felix, Tiger Stripes, pezzo che appunto, come dicevo prima, mischia una sorta di polvere dub con un sostrato disco e tanto di quel hip hop, quelle forme nuove di urban e di freestyle, quello che non era strettamente legato all'elettro e al nascente hip hop, era considerato freestyle, un genere, se vogliamo, o un'attitudine, per meglio dire, come dice bene la parola, che possiamo rintracciare alcune cose insomma di Arthur Baker, che ad esempio lavorava con i New Order di Confusion, ma che potremmo anche trovarle dentro addirittura una cosa che vi faccio sentire per qualche secondo. Ecco qua l'esempino, scusate se sono un po' troppo, come dire, esemplificativo, però per dirvi anche come Cabaret Voltaire lavorassero insieme a John Roby, che altro non era che uno dei Sound Patrol, storico progetto di Arthur Baker, legato alla nascente hip hop che all'epoca insomma era ancora elettrofunk, o forse insomma per meglio dire elettrofunk, poi sarà genitore di techno, e quindi l'hip hop era sì nato, però aveva insomma ancora una forma ancora non certa, che invece si svilupperà bene intorno alla metà degli anni 80, appunto diversificandosi. L'elettro darà, l'elettro hip hop darà forme alla techno, e invece per quanto riguarda insomma lo street sound, le prime forme di hip hop, poi si svilupperà insomma con Public Enemy, Boogie Down Production, in tutte le cose che conosciamo fino ai nostri giorni. Questo un po' per dirvi come le faccende si incrociavano veramente in maniera meravigliosamente, molto creativamente confusa. Qua addirittura a Cabaret Voltaire, appunto, che lavoravano con John Roby, e subito dopo tra l'altro un disco importante come 2x45 che vedeva Watson per l'ultima volta dentro Cabaret Voltaire, e che prevedeva dentro sonorità che si spostavano dalla wave radicale verso forme mutanti, mutevoli di funk futurista, che appunto Cabaret Voltaire poi cavalcheranno, come d'altronde in maniera anche più pop New Order, con la collaborazione con Arthur Baker. Ricordiamo insomma New Order erano appena usciti dalla morte di Ian Curtis, dal loro primo disco decisamente cupo e vicino insomma alle vecchie atmosfere dello storico gruppo di Ian Curtis. I Cabaret Voltaire, neanche a dirlo insomma, che provenivano da quell'ambiente industrial piuttosto radicale, e quindi una sorta di mutevolezza che stava informando la nuova danza degli anni 80, con tanto di critica sociale, con tanto di nuovi linguaggi espressi, con tanta anche di radicalità e di sperimentazione, però attraversata da nuove forme e anche da un atteggiamento diverso, sicuramente meno cupo e più propenso verso certi inserimenti legati magari più a un'idea di postmodernità derridiana e quindi di decostruzione, come d'altronde anche certo punk funk o certa wave tinta di nero, ad esempio ricordiamo i primi scritti politici, come non ricordare prima i citati pop group Gang of Four. Veramente si potrebbe trattare la faccenda a lungo e magari ci torneremo anche, già 451 più di una volta ha trattato queste faccende, ci torneremo chiaramente trattandole in maniera differente, non per rimescolare le carte, ma per chiarire, per magari gettare appunto dei ponti che comunque tendono a essere ancora piuttosto lunghi e a dare grande progettualità anche a musicalità piuttosto attuali. E se prima citavo una sorta di attitudine futurista verso la dance oltre che decostruzionista di Derridiana memoria, sicuramente con Ramsley si va a trovare quello che è un'idea di pop futurista, di street sound assolutamente avanguardistico, e comunque se dentro l'assolutamente ci troviamo anche un relativo, è sicuramente legato appunto a questa idea di assolutamente decostruire anche quelle nuove forme, quelle forme appena nate di suono urbano nero della nuova comunità nera che si stava esprimendo appunto nei primi anni 80, da Sugar Hill, da Grandmaster Flash in poi, attraverso una idea di mutazione, come questa sera insomma stiamo citando più spesso di altre volte, in questo caso aiutandosi con il K. Rob, altro personaggio di un hip hop piuttosto sperimentale di primissima fattura dei primi anni 80, e addirittura Basquiat, storico personaggio morto giovanissimo, anche egli molto legato come Arthur Russell a una sorta di idea pan artistica ed esistenziale veramente accelerata e assolutamente articolata in mille interessi e veramente tante produzioni, riproduzioni e fantasticherie che Basquiat insomma produrrà nella sua breve ma intensissima carriera artistica, tra cui anche appunto questo progetto di hip hop futurista, spaziale, electro dub e quant'altro volete mettere dentro queste musicalità che veramente si cibano di grande fantasia. E quindi Ramsley versus K. Rob e chiaramente il nostro Basquiat. Thank you.

Yo Wobble, The Age, Oggi Zucchei, François Kevorkian. Non so se vi dicono niente questi nomi. Yo Wobble, storico personaggio incredibilmente geniale dentro Peel, quindi dentro quel post-punk assolutamente fantastico dei primi tre dischi perlomeno di Public Image Limited, che reinventarono veramente la musica a pie pari dopo il punk, veramente dando uno scossone incredibile alle nuove musiche che da lì a pochissimo si svilupperanno dalla fine degli anni 70 verso appunto gli 80. The Age, vabbè, non sto a dirvelo chi è, un chitarrista di un famoso gruppo rock, in questo caso insomma in vacanza, e se ne fosse forse prese anche di più di vacanze, probabilmente non avrebbe fatto soltanto le cose strafamose che ha fatto con questo famoso gruppo, insomma, vabbè, sto parlando degli U2, e Roger Zucchei, storico, oltre che il suo Canasis 5 assolutamente fondamentale per chi vuole capire qualcosa di cattapo musicale, musicalità che vivono di quarti mondismi prima di John Hassell, e poi soprattutto assoluto genio dentro Cannes, quindi si sta parlando insomma di musiche che viaggiavano veramente fuori dal tempo, innalzandosi insomma in qualcosa che diventerà poi appunto, che diventerà di culto come krautrock o cosmice insomma. E François Kevorkian, giovane inglese trasferitosi a New York per fare il DJ presso vari locali, attraverserà anche lui ad esempio il Gallery, sarà allievo di Nicky Siano, e Kevorkian forse anche con una sensibilità molto legata alla sua Inghilterra saprà attraversare molta della wave, condendola appunto di questo disco assolutamente mutevole, mutante, e anzi disco al femminile, perché insomma probabilmente la declinazione più giusta per la musicalità che va a essere feconda veramente di tantissimi attitudini, di tantissimi stili, con poi François Kevorkian si attraversano insomma buona parte delle wave appunto inglesi, da collaborazioni, prima abbiamo sentito Cabaret Voltaire, oltre che John Robbie anche Kevorkian collabora con Cabaret Voltaire, collaborazioni che passano veramente attraverso tante forme e che lo portano anche proprio a traghettare questa new disco, questa mutant disco dentro le forme della house e della techno. Tuttora Kevorkian insomma ha ancora qualcosa da dire dentro le musicalità dell'oggigiorno, certo non è più quel visionario che abbiamo sentito dentro Snake Chambers, appunto con altri personaggi assolutamente fantastici, e questo ulteriormente per ribadire come si stessero mischiando le carte nei primi anni 80, stiamo trattando insomma alla fine dei 70 e primi 80, tale da generare veramente una miriade di forme nuove musicali, non soltanto legate alla dance ma anche a possibilità date da personaggi come Bill Oswald e Material, come certi Kraftwerk, che attraverseranno anche loro in maniera egregia e assolutamente futuristica di 80. Potremmo veramente citare tanti crogioli e tante menti bruciate assolutamente in maniera favolosa da queste genie assolutamente bastarde, per questo molto molto interessanti. D'altronde poi Kevorkian si è dato addirittura a un approccio che qua in Italia è mal considerato, perché insomma significa anche riflusso per molti versi della wave radicale, sempre siamo a Gaz Nevada, che da una wave appunto piuttosto spiritata poi passeranno all'italo disco, e parola che insomma forse ancora suona come bestemmia, seppur insomma Danza Meccanica, compilation appunto di questo tipo, ci informano su come poi ci fosse delle forme piuttosto curiose, piuttosto interessanti, di wave dialettica, una sorta di italo disco, così insomma chiamata in maniera maccheronica, e anche un po' così da colorare il nostro paese in maniera un po' così, un attimino fin troppo italiota, ecco, si potrebbe dire. In realtà dietro quello che viene considerato italo disco c'erano anche assolute genialità come quelle di Robotnik, Maurizio Dami, e in questo caso aiutato da Kevorkian, che dà la sua versione appunto italo futuristica del pezzo Problemi d'amour, che a Detroit, come dire, sarà un po' l'emblema di una sorta di progressive, come la chiamavano loro, perché ancora avevano un'idea dell'Italia legata alla progressive, neanche forse all'italo disco, che veniva chiamata invece a Chicago, dove nascerà invece l'house. E sarà un pezzo insomma cardine di Joanna Atkins, di Derek May, di Kevin Saunderson, che spesso lo suoneranno appunto nel loro set, datizzandosi anche appunto con quei altri mostri di Chicago che stavano creando l'acid, come DJ Pierre e altre splendide vocazioni come quelle di Armando e quant'altro, insomma, faranno dell'acid Adonis una sorta di viaggio allucinante dentro le nuove elettroniche, in questo caso appunto italo fantasiosa e assolutamente fuori dai canoni e legittimata a prendersi in onore di papà della techno, legato a Alexander Robotnik, virato Kevorkian Mix. Thank you. come fare la rivoluzione dal basso, dal bassissimo, uno strano progetto della Giamaica della fine degli anni 70, Coach House Rhythm Section, poi diventerà famoso il personaggio, ma lascio a voi, insomma, tanto poi più o meno tra poco ritroverete, insomma, le scalette di 451 delle serate, lascio a voi, insomma, scoprire poi come diventerà famoso, ma all'epoca veramente progetto assolutamente folle, tra l'altro un lato B, e anche questo ci insegna qualcosa, ci informa su come poi molte musiche sperimentali legate alla dance nascessero come lati B, come certe forme così nuove e così fuori, insomma, anche dagli stessi canoni gettati poi da pochi anni, relativamente pochi anni dalla disco, riuscissero veramente a stravolgere l'idea, a rivoluzionare appunto quel corpo dance che diventerà tutt'altro e che tra poco sentiremo appunto come visione assolutamente avanzata e stranamente visionaria, con un pezzo, insomma, che titolerà, insomma, il genere house. Prima abbiamo ascoltato come non titolare e dare merito e credito a personaggi che con nomi come Gigi Rago e Franco Farina non potrebbero che suscitare, insomma, forse una semplice curiosità legata così a nomi che ricordano appunto i nostri Franco Rago e Gigi Farina, in realtà ho detto i nomi e cognomi, che invece facevano l'Italo Disco, come veniva chiamata a Chicago e poi diventata famosa nel corso degli anni, di ristampe eccetera eccetera, che inventavano veramente musicalità assolutamente inaudite per l'epoca, anticipando veramente buona parte dell'house e della techno. In questo caso Franco Rago, Gigi Farina si facevano chiamare Expansive, ma hanno anche prodotto dell'eccellentissima elettro italiana chiamata appunto Italo, così probabilmente, come dicevo prima, anche per colorare tutta la faccenda, renderla anche piuttosto vendibile, soprattutto a distanza di anni, anche se poi nei primi anni 80 sicuramente erano musiche che avevano un certo successo nelle sale, nelle piste, insomma, più strambe, soprattutto con pezzi come Life With You, che abbiamo sfruttato appunto come Expansive, Electric Workers, Atelier Forry, Decadence, Message from Future, forse questo nome mi sembra appropriato per due geniacci italiani che si travestivano, insomma, di corpo dance e travestivano una nuova dance assolutamente geniale come quella di Alexander Robotnik. Piccole perle, gioielli che vengono appunto dagli anni 80 oscuri, forse anche oscurati da un'idea, insomma, musicale italiana oramai morta e sepolta. In realtà appunto anche dietro queste forme musicali che si volevano ipercommerciali, in realtà appunto si nascondevano veramente personaggi geniali che hanno dato appunto il là a personaggi anche come Jesse Saunders, che magari qualcuno si chiederà chi è. In realtà il primo pezzo, per chi è informato, insomma, su un po' di storia dell'house, il primo pezzo house titolato come tale è proprio On and On. Tra l'altro, vabbè, prima è arrivato anche un simpatico messaggio che mi chiedeva le ASG di come non citare il storico gruppo newyorkese, che ci sarebbe stato perfettamente dentro la scaletta, e che per certi versi anche loro crearono, ad esempio, con loro Moody già le prime forme di house music. Ma se dobbiamo stare, insomma, alla storia dell'house e anche quello che è stato rivendicato a Chicago come primo pezzo, terra natale dell'house, diciamolo chiaramente, è stato rivendicato come primo pezzo house, è On and On di Jesse Saunders, che vive veramente, come accennavo prima, di grande visionarietà, un pezzo assolutamente allucinato per essere il 1983, e che da quel momento underground, che sarà molto amato da personaggi come Frankie Knuckles, anche egli proveniente dalla scuola di Nicky Siano, di Kev Orkian, di Walter Gibbons, e da un personaggio assolutamente innovativo come Ron Erdi, ho sentito, visto mixare dai vari personaggi di Detroit che si recheranno a Chicago nello storico warehouse, sia per sentire Knuckles, ma soprattutto al Music Box, molto più sporco, più zozzo, più sperimentale, dove appunto suonava e mixava l'incredibile Ron Erdi, che sentiremo immediatamente dopo con una sua versione altrettanto allucinata, inventando non il remix ma il re-edit, ovvero un taglio e cuci, partendo assolutamente da non dai nastri ma dai dischi, quindi con un taglio e cuci mixato quasi improvvisativo, che poi è stato trasformato insomma in re-edit attraverso il tempo, è stato chiamato così, ma in realtà l'arte improvvisativa mixata di Ron Erdi era assolutamente geniale, assolutamente originale, tant'è che per tanti anni appunto sono soltanto girati dei bootleg sulle sue assolute performance DJing, dove si inventava veramente nuove forme sonore a pezzi straconosciuti. In questo caso invece lavora con l'underground di Jesse Saunders nel 1983, amici, lo stesso Saunders gira in quel periodo il Music Box, gli passa appunto un paio di copie di On and On stampate proprio da poco, e lui ci fa un taglio e cuci. Ci andiamo a sentire quindi la versione originale del 1983, ma di originalità veramente qua si tratta in maniera più che altro come attitudine, perché poi sono musiche decisamente imbastardite, quindi d'originalità veramente se ne fanno ben poco, vogliono essere rimescolate, rimasticate, rimasterizzate, ridigizzate, remixate e quant'altro appunto si possa pensare come alterità e come mutevolezza e mutanza. Forse in questo senso finiamo anche il nostro percorso legato a disco e alla no disco, forse di 451 frammenti sonori. Prima di darvi dei saluti, insomma, passiamo il 1933 storico di On and On di Jesse Saunders e lo stesso anno di Ron Erdi con il suo re-edit di On and On proprio. We'll be right back. On and on, goes on and on. You bitch. Nerdi, beh, come non finire una trasmissione dedicata alla disco, alla Mutant Disco, alla disco che non è più tale ma diventa musica assolutamente visionaria, musica che anticipa poi quello che abbiamo sentito in questo momento, ovvero l'house di Jesse Saunders, come buona parte della techno di Detroit, suoni che appunto pontificano verso nuove esperienze musicali che tuttora insomma viviamo, una sorta di genia fondativa che nasce appunto da un'attitudine assolutamente variegata nel trattare le musiche. Abbiamo iniziato e abbiamo anche un po' dedicato la trasmissione a Arthur Russell, forse morendo non si è reso conto di quanto fosse prolifica la sua musica e soprattutto questa attitudine, tant'è che comunque si parla, si ristampano molte cose di Arthur Russell, come buona parte della Mutant Disco che ha influenzato e ha dettato anche per tanti versi, e probabilmente rimarrà la sua genialità come forma o non forma dentro musicalità che appunto si cibano di strane creature, di strane performance musicali, sonore, appunto atteggiamenti che vanno a riversarsi dentro musiche e umanità che si fanno innovative, non soltanto quindi musiche ma anche linguaggi in generale, quindi qualcosa che riguarda insomma un tutt'uno, visto che poi come cantava qualcuno qualche anno fa, insomma anche la dance e anche la pista da ballo è politica per certi versi, anche se la cosa insomma potrebbe essere iperbolica, però per tanti altri forse un pizzichino, abbiamo anche dimostrato questa sera, lo è. Chiudiamo qua e vi rimando a domenica prossima in compagnia di Eliseo Scarpa. Un saluto da Max Macchia, dal Mutant Max Macchia questa notte, e una buona nottata e una buona settimana. Poi dopo c'è Natale, vi daremo anche gli auguri natalizi di 451. Aspettateli.